Cioccolato bianco, Zilliga, il suono originale, 2004, la locanda, io ne vo, sulle mani in alto quando ricomincia il party, comincia l'estate, riapre la gabbia dei matti, esci, bevi, fumi, vai a ballare, ti spacchi, e poi ti tocca buttarti al mare per riposarti, i giorni sono più lunghi, i giorni sono più caldi, le notti sono piene di personaggi mattanti, le donne sono in tiro fisso con vestiti bianchi, senza trucco, belle abbronzate con gli occhi alti, e tocca divertirsi perché il tempo non aspetta, sopra il microfono c'ho con Rude Boy Selecta, muovi il culo, urla, alza il volume a manetta, questa è l'atmosfera perfetta, vai alla grande, balla, bevi e muovi le tue gambe, fai entrare in circolo l'alcol delle bevande, e vieni con noi, lasciati andare, questo è l'importante, fatti il bagno in un fiume di cioccolato al latte, brucia le tue tappe, consuma le scarpe, guarda le donne in pista che muovono le chiappe, microfono aperto si combatte, sulle mani alte, per chi si sbatte infuoca le baracche. Balla, non fermarti mai. Lasciati andare, canta. Lasciati andare, vedrai. Muovi la testa, salta. Muoviti se ce la fai. Non ti rapare. Balla ancora. Balla, non fermarti mai. Lasciati andare, canta. Lasciati andare, vedrai. Muovi la testa, salta. E se ancora non lo sai. Locanda. Balla ancora. Balla, non fermarti mai. Lasciati andare, canta. Lasciati andare, vedrai. Muovi la testa, salta. Muoviti se ce la fai. Non ti rapare. Lasciati andare, canta. Lasciati andare, vedrai. La testa salta. E se ancora non lo sai. Cioccolato bianco torna e porta l'energia. Vi prego non state fermi, fate la cortesia. Entrate in sintonia, agitatevi alla follia. Lasciate che l'adrenalina diventi euforia. Ma se il mondo è malato non è certo colpa mia. Io faccio quello che faccio e li curo la malattia. Mando via l'apatia, rompo la monotonia. Di tutti questi MC che ti rovinano l'allegria. Ma fidati di me, ti diverti se vieni. Lascia a casa i problemi, bevi, trattieni gli scleri. Devi mollare i freni se tieni i bicchieri pieni. Devi fottere cattivi pensieri e muovere i piedi, sei nel posto giusto dove le teste seguono il ritmo, sei storto, sei dritto, l'importante è che sei convinto, sei povero, ricco, l'importante è che non sei finto, se vedo gente troppo scazzata io ne approfitto e entro, metto i vostri colpi in movimento, sento dentro una vibrazione, non la trattengo, e seguimi, seguimi, seguimi che non mi fermo, tira sulle mani in alto a tempo. Balla non fermarti mai. Lasciati andare, vedrai. Muovi la testa, salta. Muoviti se ce la fai. Non ti rapare. Balla ancora. Balla, non fermarti mai. Lasciati andare, canta. Lasciati andare, vedrai. Muovi la testa, salta. E se ancora non lo sai. La locanda. Balla ancora. Balla, non fermarti mai. Lasciati andare, canta. Lasciati andare, vedrai. Muovi la testa, salta. Muoviti se ce la fai. Non ti rapare. Balla, non fermarti mai. Lasciati andare, canta. Lasciati andare, vedrai. Muovi la testa, salta. E se ancora non lo sai. Aio, goditi la festa prima che finisca. Non essere timido, buttati nella mischia. Strusciati con tutte le donne che trovi in pista. Bevi e diventa il migliore amico del barista. Primo terrorista, libero alcolista. Sono cioccolato, zucchini, carrapa, brisca. Col bicchiere a destra, il microfono alla sinistra. Brucio la dancehall, esprimo il mio punto di vista. Aio, nevo, palle, muovi quel culo. Tra tette sudate, luci colorate, blu scuro. Tra spruzzi d'acqua, drink, doppi spliff di fumo. Questo è il posto sicuro per il divertimento puro. Non importa chi sei, neanche come ti chiami. Questo party è anche tuo, qui non ci sono estranei. Non ci sono differenze né classi sociali. Siamo ubriachi, fradici, siamo tutti uguali. Vicini, lontani, strani e normali. Sardi, italiani, cagliaritani. La festa non finisce, dura fino all'indomani. Muovi la testa e tira sulle mani. E balla ancora. Balla, non fermarti mai. Lasciati andare, canta. Lasciati andare, vedrai. Muovi la testa, salta. Muoviti se ce la fai. Non ti rapare. Balla ancora. Balla, non fermarti mai. Lasciati andare, canta. Lasciati andare, vedrai. Muovi la testa, salta. E se ancora non lo sai. Locanda. Balla ancora. Balla, non fermarti mai. Lasciati andare, canta. Lasciati andare, vedrai. Muovi la testa, salta. Muoviti se ce la fai. Non ti rapare. Balla ancora. Balla, non fermarti mai. Lasciati andare. ancora non lo sai. Se nella locanda, se nella locanda, se nella locanda, se nella locanda, se nella locanda.